serrata. Aspetta il cambio di telefono. Cazzo, da vai, di grilli vai. Va bene. Sì. Come mi ascolti adesso? Adesso va bene. Va bene, ora adesso va bene. Cazzo, va bene i grilli. No, quello ero io, quei grilli. Manuel. Ehi. Adesso va meglio? Poco fa io che stavo uscendo male, ho l'altro microfono, ho cambiato. E adesso va bene, cazzo. Da manca al giorno. Perfetto. Grazie ragazzi. E che... non so perché. Tende a innescare anche questo microfono. Si è attaccato anche il filo nel connettore. E aspetta un attimo, che sto affrettando. Prendete voi. Mangia, mangia, che ti magrisci. Adesso provo, ne provo un altro microfono, Tony. Prova. Allora. Vedi un po'? Questo rimane leggermente cupa. Questo è quello, come si chiama? Da Palmo Line. Della vedi scassi della ZG. Comunque è chiara la popolazione, poco ma è chiara. E a me ancora mi ascolti? Anche la tua un po' sta rimbombando, aspetta un po' che provo a abbassare, abbasso il... così va meglio, vedi un po'? Sì, adesso è 100.000 volte meglio. Adesso è a metà praticamente, invece il macchinino è a manetta. Posso abbassare ancora, se vuoi, se mi dice che va bene lascio così. Lascia così che è perfetto, bella chiara. Ok, invece l'altro, quello della Midland, siamo F100, che c'è anche l'eco, non so perché tende a uscire male, mi lo riprovo e mi darai conferma. Ma la batteria scarica, Vai prova. Confermi? C'hai i grilli appresso, stai in scarica. Prova a abbassare così. C'è l'eco, è abbassato questo. C'è sempre rumore? Adesso si sente alternato sotto fondo. La mano nel connettore lo stesso così? Molto meno. Non è fermato bene allora. Senza un po' di dubbio. Dammi l'altro microfono, sì, un gioiello, guarda. Guarda la radio mia, se metto così. Come mi senti? 1, 2, 3, prova. No, io ti sento bene. Ripeto, se abbassi è meglio però. Così va bene? Sì, per me sì. Adesso ho messo quello da tavolo, dai. Mike da tavolo. Io sono usato lo Shure adesso, da tavolo. E allora è uguale, guarda questo. Va meglio questo? Sì, così va bene. Dai, lasciamo questo, dai. Certo. Qualcuno c'è ogni tanto? Qualcuno sta affettato. Il segnale quanto mi dai? Avevo sceso l'antenna, avevo sceso bazooka e sono rimesso nuovo l'antenna grande. Le ho fatto qualche saldatura perché stavo distrando il polo centrale dell'intero dell'antenna. E quanti? 9 più 20? Ma non so se sia giusto questo smettere. Perché li ho talati io più o meno a sentimento, mi. Vabbè, tu capirai dove sono io so dove sei tu, più o meno dove sei giusto. Non lo so. Da me, il mio com'è? Uguale, più o meno? Scappa, 9.22 per l'esattezza. Con quanto stai uscendo? Io? Io penso che questo ne dia una quindicina, 15, almeno li dà questo in AM. Non sono stato io, ho 15 fatto, non di più. Ora si è abbassato il segnale un attimino, vediamo se ho toccato questo tasto. Ecco, hai capito qualcosa? La radio, è sparita la radio. Ecco, allora questo non è neanche niente, no, sto uscendo. Allora quanto è baracchino? 5-6 watt, non di più. Sì, è scesa la radio, non so perché. Quindi questo non è roba di potenza assolutamente, strano. Eppure questo mi dà, come c'è scritto qua, non vedo un bifero, non vedo. Allora, HI, perché mi si abbassa lo smitter quando abbasso questo tastino qua, capito? Sembra la potenza, ma se esce da via la radio, buonanotte. No, il segnale, perlomeno, mi è sembrato che non sia cambiato niente. Provo a attenuarti, vediamo un po'. Ti porto dal 9 e vediamo se scendi dal 9. Metti la portante fissa. Ok. Adesso passo, Hai cambiato qualcosa? Sì, da 9 sei sceso a 7, però la radio peggiora, sembri dentro un barato. Vabbè, lascia così, dai. Quindi puoi segnare cara, ho capito. Sì, sì, ho visto che perché quando lo uso con le pieghe fine a manetta, non te ne accorgi questi piccoli, poi c'è più attenuato e vedo più la differenza quando stacchi, quando abbassi. Ma un'antenna che hai messo, la canna a pesca, ti va bene? Sì. Non ho capito, scusa. C'è la canna a pesca tu? Sì, sempre San Pi. Ho capito, ho visto che non ho messo sul tirante, niente proprio. Perché tu sei alle spalle di mia sorella, dietro abita mia sorella. Non lo so, dall'altra parte dei giardini? No, la via centrale. Ah, quindi la strada principale. Non so chi sia, però è. Ecco, vabbè, io non le dico via perché non mi va a guardare chi, ho capito. Ecco. Ascolta, come lo stai alimentando? Un trasformatore di 15 ampere. 15? Sì, l'alimentatore è 15 ampere, sto uscendo con 13 volte e basta. E quindi auguria. Io sto usando quelli switch da computer, dai. Un po', non so quanti ampere sia, però vedo che le luci rimangono abbastanza bianche, dai. Io c'ho anche uno di quelli presi dai cinesi, qui. Ero regolato a 13,8 con tessere, tutto a posto, ok. Però non lo sto usando perché non riesco a fare. Potevo di riserva, non so mai se c'è questo o c'è quell'altro. Anche questo l'ho fatto così, ho preso riferimento da quello stabilizzato, da quello vecchio, da quello da 10 ampere, e insomma, per i tempi duri va bene anche questo, dai, come muletto. Niente, se va bene, sono questo mese, questo baracchino lo do via, e basta, arriva con come tre canali, e per Natale mi compro quello con la stazione fissa e buonanotte. Quello che c'avevo prima, il Galaxy. C'ho più la bella stazione fissa a base, dai. Un bel Galaxy Saturn, ecco, magari. Sì. A me questi alimentatori poco mi piacciono. Io pensavo qua, c'ho il baracchino che c'è tutti questi canali, ce l'ho anch'io qua. Però a me la mobile non piace, meglio la stazione fissa. Io ce l'avevo dato via, perché a me sempre c'ho pentito, ragazzi. Le cavolate si fanno, dai, però... devi stare attento cosa c'è, perché c'è in giro un bel di roba aperta, come si dice, scacciavitata, devi trovare una buona occasione. No, ma io vado a comprarlo, non è che loro tirano da fuori. Io mi faccio un giro a Roma, che c'ho carissimo amico mio, andiamo con lui e lo prendo nel negozio, capito? Sì, a Roma c'è più mercato. Roma, Milano anche parenti. Mi fido più, molto più, diciamo, di questo amico mio, perché anche un CB. E quindi, niente, metto Simone, cioè, quando vieni qua, il riempio la panza. Gli ho mandato un bel regalo, gli ho mandato una convenzione di vini, il castetto è bello, e io vino ne bevo. E niente, l'ho mandato alla Sardegna, fatto il legno, con una bella birra piccolina in chiusa. Un bel pensiero, dai, simpatico. Manuele, che ha mangiato, sai, poi dice sta dimagrendo, va. Io non so se lo conosce Manuele o quando è l'ultima volta che l'hai visto. No, negativo, non lo conosco. Lui dice poi che sta dimagrendo. Ma è più cicciotto di prima. Manuele, affettate, ma niente, vabbè, poi va a lavorare la notte lui. E poi vigilate. Scusa, stavo parlando qua in verticale, ogni tanto ci disturbano. Vabbè. Tu dimmelo qua, cosa stai facendo? Non ho capito, di? Dimmelo cosa stai facendo. Io mi corro da una parte all'altra, sui vecchietti. Perché il tropisce è più grande di me, no? Non ho capito, che quindi si parlano in due. Cosa hai detto, Tony? Ho detto, non è che sei più grande di me, sei molto più piccolo di me. Ho detto, battagliando con i vecchietti, con i genitori, suoceri. Ah, quei vecchi ho capito come vecchi. Ok, io invece sto lavorando, conto mio, ho fatto quel lavoro che dovrei finire venerdì se tutto va bene. E quindi un bel impianto elettrico, sfilato tutti i cavi proprio semipiombati, antichi, tutto. E dovrei finire venerdì praticamente. Però sto lavorando a sbalzi perché il padrone lui lavora, quindi mi ha dato i giorni di lavorare lunedì, mercoledì e venerdì. Capito? Qui non è colpa mia se lavoro a sbalzi. Si fa quel che si può, cioè, il lavoro già va bene, anche io da una parte all'altra, anche lì non è sedentario, cioè, lo sai. Ma io non mi si che accendo la radio, guarda. Intanto accendo, ora c'è nessuno, spengo subito. Frazione in 2-3 secondi e spengo subito. Sentisti, no? È successo di tamponare, dove va? Qua più 200. Quindi, allora, il capo dell'antenna addirittura era staccato da mesi in terra, il PL. Adesso poco non me ne fregava, metà non trovo mai nessuno. No, anche io intanto accendo, non c'è nessuno. L'altro giorno stavamo facendo delle prove, mi con un altro apparecchio. Stiamo cercando un po' di centrarlo un po' in frequenza perché c'è così, un po' scivola di frequenza rispetto, diciamo, se il cursore si rimette al centro, no? Poi l'FM lo sento, non esce bene, più che altro non riceve bene. Sì, sono vecchiotti, hanno bisogno di una lineata, dai. Ah, io ho preso questo qua, è la Fayette 2004 FM, è bellino, vado laterale, sei base. Questo era in macchina, addirittura lì spese in mezzo sciolto, mi sa. Invece di vederlo lì, diciamo, chiaro chiaro, il vetrino è tutto tipo tartarugato, ma come si dice, martellato sembra. Bisogna cambiare i vetrini in plastica, sicuramente il caldo li ha danneggiati. Senza quale dubbio, se c'è così. Ma io ho costruito dei mobili, perché ho costruito anche mobili, quindi fai da te. E l'ho fatto a misura che voglio io, e scaffali che voglio io, ripiani tutto, sportelli. E questa è sempre l'ombra, c'è la copertina sopra per la polvere, ma intanto lo tocco la copertina, la spolvero, la rimetto. La già bene. Io questi li tengo in genere, anche io li copro con asciugamano, vai, per la polvere, per l'umidità, un po' qualcosa li protegge. E poi sono sopra la scrivania, una cassettiera a fianco dove sono varie cose, dai. Però come dici tu, non c'è più nessuno. No, infatti io perché la sto vendendo, domani se mi compro un gas per bellezza e basta, più che altro, mi piace perché è bello. Tutto qua, nient'altro, il nome è perché non c'è nessuno, quindi non mi frega niente, le poche persone che entrano, specialmente qualche persona, per carità, non vedo niente. Qualche riex magari, quando c'è un po' di propagazione. Quello sì. Andrà bene, spagnoli se ne sentono tanti, francesi, che era pure, poi sentono solo che cavolo di tonini sono, non si capisce la lingua, sembra che c'è sono macchi, non si comprende nulla. Vogliamo cercare un po' l'inglese. No, ma non è neanche l'inglese, capito? È tutta una lingua diversa. Sembra un rombo, tipo come per gli slavi, come fanno proprio un linguaggio strano. L'inglese lo capisci subito, ma questi non sono inglesi. Tutto gonfio, sì, Tony. Era ora, non mangiare, mica di grassi, ma non è. Guarda, abbiamo mangiato due belle fettine con patatine e mezza cosa di insalata russa. Mezzo lavamano, va. Ma ti dico, adesso sto bene, mezzo litro di vino bianco. E non vedo. Te. Niente, allora vado a vedere, io dopo mi tocco col pancorante del pozzetto. Patatine metto ad aria, friggitrice ad aria, e poi cosa mi faccio? Qualche bistecca. Ho preso anche il barbabietola che farò bene quello lì. Facciamo sentire un po' di olio d'oliva, un po' d'aceto di mele che è leggero. E ciò va bene, per farò per leggero leggero. È bello che cazzo mangio tutta questa roba, sono sempre male, dillo a tutti. E vuol dire che c'è un metabolismo veloce. Lascialo dire qualche bugiardo, se lo vedi un tornetto. Adesso è bello attacco lì. E c'è anche il mare di bocco, bello ciccione. Ah, adesso è marrolino. Sì, sì. Lo può dire Manuel che chi non ti conosce. Ma non a me, che sei mio figliuccio. Già te l'ho messo la mano, ma. Va, mi vieni da mamma, va mamma. Se vai da Manuele, ci stai un giorno e mezzo girando intorno. Così è. Pensare fra, pensavo 48 kg, neanche di 48. E adesso 110? Sì, adesso più o meno 60, dai. Basta. 60, peso più io di 60, che sei sono magro lì. Non pesa 60 per gamba, ho detto tutto. Io sono peso 60, sembra un fritto grasso. Sì, sì. E adesso che antenna c'hai, Manuel? Cos'è, fra? Con che antenna stai parlando? Tanto con una frusta, un'antenna di macchina. Questa è quell'antenna di macchina con la molla. Non ti sei ancora convertito a una bella verticale? Ah, verticale. Prima erano altri tempi, allora sì che stavo sempre cambiando, mi torno, non lo so. Prima c'era la passione, ma adesso me ne è passata la voglia. E comunque ci arrivi lo stesso, dai. Un'antenna attaccata al poggiolo, al primo piano. Sì, più o meno come me, proprio con la canna da pesca, dai, un po' più lunga. Qua devi bene qua, lo stesso. Ma qualche mosca da naso ce la togliamo, dai. Sì, allora la sua promessa l'ha appena sul tetto, che quel tetto suo è fatto troppo strano. Se riuscite a mettere l'antenna sul tetto, guai, arriva la bomba. Purtroppo è fatto in un modo che è un casino, è troppa discesa, si è fatto tipo triangolo. Che è un casino per metterla sul tetto. Se non si fa una botta da qua per uscire su, se ci va una scala aerea, oppure aprire il tetto. Là. Ma c'è una botta, sì. Non abbiamo, ne abbiamo una che entra dentro il sottotetto e basta. Però per uscire fuori no, bisogna ogni volta togliere le tegole, che sono tutte legate a fili ferro, dai. La Santiga è uno più. No, qua già c'è la botta, arriva all'ultimo piano. C'è la botticella, la moto, la piccolina, ma riusciamo appena a passare, l'hanno fatta proprio per non salire su. Infatti quando c'è qualche problema chiamano la scala aerea, perché questo tetto qua non è in tegole o cosa, è in lamiera, è in pendenza a burro. Se qua non dove metti i piedi, non c'è neanche parapetto qua. Quello è pericoloso, ci vuole, come si chiama, la linea vita, ti devi agganciare, un macello. L'antenna dove ce l'avete, l'antenna della televisione? Sul tetto, l'antenna della televisione è centralizzata per tutti i 18 famiglie, casino che è un palazzo umano, Che cazzo, noi siamo in 6, di quali un paio non è che ci sono. Che devi fare? E magari avere un bel terrazzo sopra il tetto, cavolo. Oppure almeno un bel palo già pronto, invece non devi, per mettere un palo devi bucare tegole e tutto. E poi un casino, poi si lamenta, entra l'acqua e cose varie. Non ne metto fra, perché lo sai come sono fatti questi qua. Poi se anche in un condominio magari metti la, vedono un'antenna, vedono il cavo, le rughe di sopra, qui, là, allora queste rotture di mare non è volo, quindi la lascio così e basta. Beh, fortunatamente mi sembra i televisori di oggi forse sono un po' più schermati, perché la mia antenna addirittura era proprio tra la mia antenna e il televisore di questa signora c'era solo il muro, anche se sono muri da 60, muri grossi, in tracchitte, però non si è mai lamentata, Avanti Tony. Sì, l'ho detto, ma bene, che nella botola non ci passa, perché quella è una botola normale, per persone normali. Se per noi ci vuole un botolone per passare noi. Non vi basta, va. No, va, lascia aperto, sono piccole quelle botole, Tony. Allora fate cosa di bussoli. Un metro, ma un metro, sono piccole. E penso un po' un metro, non bevi. Questo va noi. Tu sei guardato. Sono per la speliolo quella. Cazzo, un metro, da te. Se mi dici che 60 per 40 che piccolina ti posso capire. Ma se mi dici un metro per un metro, ma come poco, a vero fra? Sì, un metro per un metro mi basta come si chiama? Che tu. Che fa Freedom, che è rimasto incastrato in grotta in Sardegna? Un metro non c'è, comunque sarà intorno 80, so. 80 sì, un metro non c'è però. Però sì, è grande lo stesso, ma non ci puoi andare su perché c'è quel tetto in lamiera. E poi è in pendenza, non bisogna, è parabete né nulla. Poi scivoli. Che sarà almeno 25-30 metri, capito? Che palazzo è enorme. Quanto sono? 5 piani, fate il conto. 18 metri sono il palazzo, minimo. No, 8 piani sono. Meno ancora, fanno 8 per 3, anzi per 4, perché parte da 0 e sono 3 metri, poi più o meno da 3 sono già 6 metri. Tu fate il conto quant'altro è il palazzo. Poi c'è quel tetto che è fatto così, altre 4-5 litri di tetto fatto così spiovetto, guarda, è un casino. Pronto, lui? Eia. Che vuoi, le scarpe quelle o a calamita oppure quelle con le ventose? Eia, quello vorrei vedere a Marmel, capite che bisogna. Sì. Buonasera a tutti, dai, dopo un. Ciao Gianni, un abbraccio anche a te. Ciao Franco, ciao a tutti gli altri amici, dai. Come va, come va? Tutto ok, tutto ok. E perché non pare con me già? Che ti ha fermato e hai camminato dritto a testa bassa. E anche lo dici la verità, eh? Perché ti nascondi? Cazzo, mi blocchi su WhatsApp, fai quello, quell'altro, ma non è i coglioni, ce l'ho capito, eh. Io se una persona la ricordo amico, vado a finire tutto, se non mi parla male di te, e con lui te lo porto in faccia, non ci vuoi venire. E allora io se glielo dico che sei stato tu. Vesti tu questo qua non lo fai, o se fai un ragionù, o chissà che cazzo te l'ho detto, te l'ho rotto le palle, però non posso di bene, ripeto, cazzo mi blocchi, ti chiamo al telefono, mi chiudi la chiamata, ti ho visto quando io mattina, insomma, e anche mi ha sorrito, ma insomma, attimo la piombo, no, fatti uomo. Buonasera a tutti, sono all'ascolto, non mi piace fare certe cose alla radio. Certe cose, io allora, non ti ho mai criticato, prima base, mai, ricordalo per sempre. E se qualche cosa di altra cosa, cosa di me o ti ero riferito, ti ero detto, se un altro cristiano mi chiamava al telefono non dicevi invece nulla, proprio zero. Quindi, conclusione, ho capito che tipo sei, quindi non ci si comporta così. Va bene, dai, scusa, Franco, ripeti. E come si dice? No comment. Manuel. Vabbè, da una parte c'è anche ragione, se c'è qualcosa da dire, te la deve dire al telefono, invece le ha bloccato, dice il su WhatsApp, l'ha bloccato un numero, vuol dire c'è qualcosa con lui. Non dico di parlare qua, ma se c'è qualcosa lo dice al telefono. Esatto, dai, come le persone grandi, dai. Quindi si dice. Ma io, grazie a Dio, sono un tipo che penso la lingua, io e la persona affronta tu per tu, subito. Le ha già bisogno, poi se va a un prezzo. Però visto che lui lo reputavo un amico, invece a quanto pare non lo è. Vabbè, penso per lui, è perso un amico. E questo lo può dire a voce alta, perché io non voglio rifacciare niente, lasciamo perdere, già lo sa lui, comunque. Non c'è problema. Tanto meglio un amico, se è un amico puoi reputarlo così, ma non penso proprio, uno si comporta così, non è più un amico. Quindi, amici di un pochi con le punte al dita si possono toccare. I veri amici veramente, che qualcuno se sente qualche cosa che mi conosce, che ti possono, no? Se mai dice no un attimo, io te lo dico che sei stato tu, ti porto in faccia, se è vero, invece questo qua non l'ha fatto, perché fa capire molte cose, capito? Se nasconde o comprende quell'amico, l'amico lo so, uno non è un amico se va a criticare un altro, non critico un altro, io le devo cose, le dico in faccia e basta. Vabbè, dai. Intanto qualcuno che ho sentito basso, forse un break per un controllo, chi lo sente meglio di me lo mandi avanti. Sì, Santiago sì, e Radio 3-4, non di più. Avanti l'amico per il controllo, mi senti? Addirittura non senti neanche me. Io sentivo a livello QRM, quindi ho sentito il break per un controllo, però molto basso. Ok, sentivo sì, qua arrivato, la radio è comprensibile, ma non mi sente. E allora, carissimo amico, da dove stiamo muovendo? Se sì, condizioni precarie, che sia Sassari, buttaci via tutto. Per lì, attenzione, Aquila Reale, mi ascolti? Aquila Reale, mi senti? Sapevo che sto chiamando, da dove moduli? Sì, Bassino, sentivo sì. Che zona? Hai? Ottava allora. Ok, comunque. Torino Kawasaki da questa parte, Sassari, me, periferia di Sassari, diciamo. Zona ospedale San Camillo. Te l'ho appena detto, zona San Camillo. Ok, lo senti fra? Lo sento, ma proprio pio, Come si chiama? Aquila? Aquila Reale. Aquila Reale, mi senti? Sì, Reale. Ok, sì, adesso lo sento. Però, ripeto, ti ascolto molto basso. Che antenna stai usando? Mi sente, no? Aquila Reale, che antenna stai usando? Ma forse poco. Attenzione Aquila Reale, mi senti? Beh, sicuramente roba nuova, io ho mai sentito. E neanche io, infatti tarda a prendere il microfono a dire qualcosa. Aquila Reale da Sassari, mi senti? Sì, sì. Che antenna stai usando? Una Bassilio, arrivi un po' Bassilio qua a Sassari, eh? Però un assilio di macchina. Un assilio di macchina, antenna piccola. Aquila Reale. Sì. Ho detto un'antenna di macchina piccola. No, no, non è quella di macchina, è addirittura. Sarà fatto volta, stavo. Ma sei nuovo in frequenza, sì. Io che mi fa, diciamo io. Vabbè, più o meno. Com'era il tuo nominativo di 15-20 anni fa? Perché io sono un vecchio, più di 50 anni di frequenza. Io sono per creare, tipo che poi io lo spiego. No, mi stai dicendo zero allora, c'è Tempio e Alghero, no. Perché Sassari io a Perreale non ho mai sentito. Quella della notte, eccetera, eccetera, adesso, però anche la Reale no. Amico Franco, ma noi intanto tu non lo senti, vero? Sì, lo sento, lo sento. Ma tu a lui non penso che arrivi, perché già arriva Pio Pio qua. Ma lui dov'è? A Ottava. A Ottava dovrei riuscire, perché Franco mi sente. Ma Franco... Coso? Marino, che di Ottava, mi ascolta, vabbè che c'è l'antenna sul tetto lui, però lui non so se mi ascolta, io lo sento, già lo sento. Sì, ma tu ce l'hai alle spalle quasi l'antenna tua Ottava, capito Manuel? Vediamo se ti ascolta, Aquila Reale, lo senti a Manuele? Sì, mi senti Aquila Reale, io ti sento a te. Pensa un po' così intenda a te, intenda a me. Ciao Tony. C'è sempre Manuele, sempre anche a me. Te c'è la terra sul tetto, tu dai, Manuele in condizioni precarie, è a torre sentirà senz'altro. Manuele non ascolti perché ti ha chiamato, sono davanti a te. Capo, è stato saluto dottore, ciao Tore. Ciao Fra, ben sentito dopo di tanto. Come si dice, a volte ritornano. Che andiamo, che andiamo. Manuele, cosa sei andato a friggerti la minestra? Sì, sono mangiato là, giusto. Mi ha mangiato due belle fettine impanate. C'è sono? Fine, mezzo lavamano di salata russa. Vecchia la truppa! Vieni, Giulio! Ciao Franco, buona serata. Ciao Tonino. Ciao Manuele, ti sento bassissimo, quasi niente. Poi c'è questo Aquila Reale, che lo saluto, ben entrato sul binario 10. Poi c'è qualche altra persona che forse si è già allontanata, mi riferisco a Gianni W1, non so se si è allontanato, ero un po' distratto. E poi c'è un'altra modulazione qua, in ultimo passaggio, che mi fa piacere di ascoltarlo. Avanti l'amicone, K, buonasera a tutti. Ciao Giulio, buonasera. Scusi lei, ma si riferisce a me? Certo che mi riferisco a te, come no? Ciao Tore anche, se mi sei dimenticato di salutarti. Dopo una marea di tempo, mesi senza frequenza, per cui non per me, io sinceramente tutti i giorni modulo. In propagazione, però, visto considerato che sul 10 ormai non c'era più nessuno, e allora ho cercato qua un po' d'atterraggio. Avanti Tonino, a te la sciabola. Ciao Giulio, io ho ripristinato un po' l'antenna, manutenzione eccetera eccetera, poi ci hanno sentito troppo tanto. Tanto accendevo, non c'era mai nessuno, e quindi ho spolverato un pochettino tutto qua. Facciamo girare, Franco vai. Sì, non ho capito chi ha rilanciato poco fa, Giulio, intanto saluto Giulio, mi hai sentito dopo qualche tempo, dai, a te il mic Giulio. Ok, Fra, sì, diciamo che è passato un bel po' di tempo senza sentirci, ma non solo con te, anche con gli altri amici, sinceramente, perché io tante volte accendo anche la mattina, faccio anche qualche chiamata, ma nessuno risponde, evidentemente, tutti al lavoro o tutti a spasso, non lo so, comunque io diciamo che seguo molto la propagazione, dai. Ho fatto tutta l'Europa, ho fatto quest'estate e parte anche del Sud America, Brasile compreso, eccetera eccetera. Ciao Gianni, riprendi. Ciao giù, dopo tanto tempo ci si risente, dai. Buonasera a te, dai, e buonasera anche all'amico che arriva un po' basso, ma ce lo sento lo stesso, dai. Va bene, saluto a tutti che chiudo, che mi devo preparare per andare al lavoro. ha fatto piacere sentirvi. Ciao Giulio, ciao Tore, ciao Franco, ciao Torino, ciao a Gianni, anche a Doppio Ru, la riprendete tutta nel microfono. Ciao a tutti. Ciao, ciao Manuele, buon lavoro, ci sentiamo. Ciao Manuele, buon lavoro. Ciao Manuele, buona serata e buon lavoro. Ci siamo sentiti solo per un attimo, vabbè, pazienza. Alle prossime, andrà meglio sicuramente. Avanti, ottava, quella reale, K. Sempre a Sassari, a Sassari, a Sassari e dintorni, per cui non c'è problema. Come tutti gli altri amici, tutti li dovreste ricevere bene, anzi sicuramente li riceve bene anche Tonino, Gianni soprattutto riceve bene e tanti altri, forse un po' meno Franco, però anche lui ti fa sentire. Riprendi Tonino. Senta, facciamo a noi, buon trabacco allora, ci sentiamo. Ma a proposito, come ti arrivo a te Giulio? Ti arrivo bene? Oh Tonino, non capisco molto bene la tua modulazione, un po' cupa la sento, come mai? A differenza di prima che ti sentivo molto bene, oggi ti sento un po' cupo, baratolato, dai, diciamo. Non ripeti per cortesia, vai. Ho abbassato un po' la radio, allora, Franco mi sentiva bene, tu dici a sentirmi cupo. Ora adesso questo passaggio. Sì, così va bene così, Tony. Ok, va bene, lasciamo così allora, sto usando sempre quel microfono sciure. Tutto qua. Bene, Mira, non ho capito che era amico che è entrato. Avanti. Ma mai stai c'è? Ehi! Sì, cazzo, dobbiamo vai, andiamo a mettere il direttore. Ho schiacciato, ho fatto cucù e Giulio ha riconosciuto la modulazione. Buonasera a tutti, per chi mi sente naturalmente, perché io non sto più usando l'antenna che avevo prima, ma vicino al multibanda HF, quindi se mi sentite basso è solo per quello. Ciao Tonino, Gianni, Tore, Franco Binario 1, Binario 2 e Marco Giulio. Poi saluto a Manuele che è andato via, ma Manuele qua non arriva. A te Tonino. Massa. Capo Claudio, ciao, ben sentito. No, allora io ti ripeto, la voce è molto più grossolana, la ho messo sul cavo di colonnina esterna, le modulazioni sono tutte un po' diverse. Tant'è vero che non stavo riconoscendo neanche a Franco, fate conto. Poi abbiamo ascoltato bene e bene, dove eccolo qua. Ok, ti chiedo scusa, qua, non devo riconoscere la verità. Abbiamo anch'io, D'accordo, chi è che vuole entrare, che mi ha sentito qualche duro? Lo riprendo io perché salutare a Claudio, dai, io non ho voluto svelare il segreto, l'avevo riconosciuto dal primissimo momento. Comunque Claudio, bene di ascoltato, è sempre un piacere, e mi devi diciamo aiutare, nel senso che tu l'altro giorno avevi detto che qualcosa mancava della frequenza, e questo qualcosa penso che sei tu. Vedi un po' tu, non so cosa dirti, o Claudio, non voglio forzare la volontà di nessuno, però per conto mio saresti ben accetto, oltre che molto producente per la frequenza. Vai Claudio. Lo so Giulio, lo so, ciao Fra, un abbraccio, con Franco ci conosciamo anche insomma a frequentazione. Lo so Giulio, però credimi, non ho più quella voglia che avevo prima di stare in 27, anche perché come ha detto Tonino e come chiaramente dicono un po' tutti, io quelli che sento un po' più spesso rispetto agli altri sono Gianni che fa due chiacchiere, Tore con qualche volta Gio Maria, ma non sento più nessuno. Non è che le radio non le accendo, le radio ce le ho sempre, le accendo, mi fa piacere a volte se c'è qualcuno ascoltare, per carità, ma non è più come prima. Quindi non c'è più quella voglia, ma non solo in 27, anche in parte amatoriale sono un po' assente, perché proprio forse ho dato talmente tanto che alla fine dici basta, boh, non agio più gara. E poi la posizione in cui mi trovo non è più quella di prima, quindi a volte sento, a volte non sento, dipende da chi sta parlando. Sassari arriva benissimo, Tonino ha un 5-9 più 10, tu sei 5-9 abbondante, Gianni è quello che arriva un po' più forte. Insomma, vi sento tutti da Sassari, ma a volte magari parlate con gente che qua anche perché la mia antenna non è più performante come prima, tutto qua, capito? Io Giulio, il cambio per Franco, e beh, binario, sta a posto a domo. Tutto a posto e niente in ordine, come si dice. Ciao Claudio, mi hai sentito, un abbraccio a te e a tutti i componenti, già lo sai, no? Dimmi se arrivo, se mi ascolti anche con quell'antenna. Sì, arrivi quasi 9, Fra, non ci sono problemi, arrivi, arrivi. Ciao Claudio, basta mettere l'antenna alla 27 e sei di nuovo tra noi. Ma tu già, grande antenna giù di Boni, già c'è mia moglie che a volte si confonde, che c'ho di poli che tagliano il giardino. L'altra lì, giù di Tombo, ma lo siamo la Giortiva, che antenna, lo siamo la Giortiva, c'è un stazionario, ma da vedere aveva steso nel dipolo invece di stendere nel filo normale. Vediamo un po', Tore. Sì, sono qua. Ciao Claudio, ben sentito. E anche a mister, che non va a mettere più il nome. E andava già mal compreso. Andiamo bene, andiamo. Certo, bubu. Hai compreso, così è tutto lì, tutto a posto, ho niente in ordine, buddù. Ma io tiro là, sono entrato poco e nulla, la verità. E quindi quando pensavo di avere qualche amico come suo, dove vado a chiamarlo e mi vedo certe cose, mi dà fastidio, tutto qua. Non ho mai rotto le palle a nessuno, mi conosci Claudio, io sono una persona che quando devo fare una cosa vado in faccia e faccia e parlo, discuto quello che c'è da chiarire. Non mi va a me di bloccare la persona su WhatsApp o girare la faccia quando lo trovo in strada, a me questo mi dà veramente le palle, scordo la frase. Ma ripeto, chiudo il discorso perché non è cosa che devo far sapere molte persone, tutto qua, sono un tipo che poi sto molto lavorando, Claudio, negli impianti nitrici, in vari appartamenti, la parte di lune sole, sono soddisfatto di quello che sto facendo, e quindi troppo poco, ne dormo con voglia la sera, sono un po' stanco, a volte accendo spazzolino, niente, non c'è nessuno, spengo tutto, mi guardo la TV, capito? Del resto, Claudio, posso assicurare, mica per mille, tutto ok. Bene, bene, e bisogna fare, Tony, bisogna fare. Io che non è che sono molto in forma, ma chi vive in campagna lo sa, c'è sempre da fare, sempre da fare, sempre da fare, sempre da fare, comunque va bene, meglio tu c'hai un mestiere, quindi è bene che te lo sfrutti sino a quando ne hai voglia, anche perché ti porta qualche risorsa in più, tutto così. E guarda, io oramai è così, è così, le amicizie sono quelle che sono, c'è chi, come si dice, mette in atto quell'amicizia vera e pura, e c'è quello che a volte ti gira le spalle, purtroppo è così, non è il mio caso, perché io ho dato un taglio un po' a tutto in generale, la verità, non voglio dire né Ciaramelli, né questo né quell'altro. Quelli che io mi tengo e quelli che vogliono fare amicizia aspettano, perché l'amicizia è una cosa seria. Tutto qua, come ho detto prima, io ho già l'altro, ho preso tanti di quei colpi e quindi non sono più, non ho più voglia di prendere i colpi da nessuno, ognuno faccia la sua vita e io mi faccio la mia, non me ne fotti più nulla da nessuno. Dove è matto giù? Ok Claudio, ehi, a te dai di fin di, non c'è problema, oh Claudio, non c'è problema, tu e te prendi colpi già ti sai difendere, per cui il discorso è sempre quello. E cosa posso dire io allora, il vecchietto della frequenza, oltre a Gian Maria, perché lui è più grande di me, e io sono il secondo vecchietto rimasto in questa frequenza, perlomeno qui a Sassari, poi per il resto andiamo avanti. Io sono diventato Brumandroni, nonostante i miei 83 anni vorrei fare qualcosa, però non c'è più la capacità, o meglio la forza, no? La capacità c'è sempre, perché quello che ho imparato nella vita me lo ricordo sempre, però diciamo che la forza incomincia a diminuire, è ovvio, no? Normalissimo. Mentre invece Tonino, che è sempre nel pieno vigore fisico, lui continua a lavorare e fa bene, quello è molto importante. Franco naturalmente è ancora più giovane, meglio ancora, e sono contento per loro che hanno una attività lavorativa ancora in atto, per cui va bene così. Avanti Franco. E ancora qualche, non dico molti mesi, una ventina mi sembra, me ne manco, e poi anch'io, se non cambiamo le leggi, andrò anch'io in pensione, dai. Ma no. Giulio, quando tu vuoi fare qualcosa che c'era un po' di, non dico di muscoli perché non ne ho tanti muscoli, però un po' di forza ce l'abbiamo ancora. Fai un fischio e ti diamo una mano, Cosa devo fare ormai? Ormai non ho più niente da fare, ho solo rimanere a casa e diciamo guidare più che altro la famiglia in un certo senso, tra virgolette, tra me e mia moglie, che tra l'altro in questo periodo non si sente molto bene, però diciamo che sto facendo anche da infermiere, per così dire, dai, non niente di grave, niente di particolare, le solite disturbi di stagione, ovvio, no? Come succede a tutti, io l'ho passato prima, adesso è toccato a lei, per cui prima lei ha atteso me, io adesso attendo lì, è normale, no? È normalissimo. Facciamo bene davanti Tore, che è un po' in parcheggio, avanti Tore. Sì. Ognuno la zona, io invece ando e torno, con i nipoti. Cosa ci vogliamo fare? A chi è il lavoro e a chi è accompagnamento? Ok, riprendo, dai. Aspetta, incoraggiamo questo nuovo arrivo della frequenza, questo Aquila Reale, se c'è ancora in ascolto. Chiamiamolo, facciamolo partecipare anche lui al nostro QSO, così almeno si incoraggia e magari rimane in frequenza e ci fa compagnia durante le serate o anche durante i giorni festivi probabilmente. Aquila Reale, ci sei? Sì, qua sta chiudere, posso fare quello che facciamo, ma per amici possiamo scrivere, io ho Facebook, grazie. Ok, sono io che ti ringrazio da parte mia, gli altri amici lo faranno per sé, per cui mi fa piacere se continua a rimanere frequenza, così cerchiamo di allargare un pochino anche il numero di partecipanti alla 27, non c'è problema. Vai Tony! Ciao a Aquila Reale, ci sentiamo, fatti sentire, alla prossima, avanti Claudio. Ciao Aquila, ciao, non so se mi ascolti, Claudio Sparviero qua sotto le colline di Ogilo. Ciao, ben ascoltato e salutoni, alla prossima. Avanti Gianni. Ciao Aquila, mi hai sentito, fatti sentire che ci fa piacere se rientri, dai. Franco, va. Saluto anch'io Aquila Reale, sperando che guardi, questa antenna la metta un po' più in alto, quindi magari lo ascolto meglio. Avanti Tore. Ciao Aquila Reale, ci risentiamo alle prossime. A risentirci. Non mi vergogno a dirlo, sembra che ne ho 50-55, non lo so, non me li sento. Un bevesire che grazie a Dio si casò anche su, che ti posso dire? La vita continua, io fin quando ce la faccio lavoro, è un lavoro leggero, elettricista, lo sai benissimo, e mi piace moltissimo come mestiere e continuo a farlo fin quando ce la faccio e ne ho provato, tutto qua. Veneveda, Franco ti prenderà. Aspetta che forse c'è Gianni che mi ha chiesto una cosa, Gianni. Ehi, hai detto, questo qui è il microfono Midland che abbiamo preso insieme con il Ruiz, come va? Così, non è il massimo, però ti ascolto bene. Invece il mio, quando lo collego, fa un casino, boh, innesca, boh, non so perché. Magari non si adatta come impedenza a quell'apparato, boh. Non lo so, già prima lo dava solo attaccando l'alfa lì, ma adesso invece oggi è diretto, proprio nulla. Esce male, innesca, alternata, cose varie, non lo so, non si è attaccato qualche filo, o la batteria scarica, boh. vabbè. No, io l'ho lasciato qua perché l'altro mi è partito e quindi c'avevo questo e ho messo questo qua. Va bene, noi possiamo pretendere tanto. Avanti Giulio. Ok, già vai bene, già, non c'è problema. La tua radio è abbastanza comprensibilissima, per cui non c'è problema. Poi tu lo sai, no? Te l'avrei detto in partenza, quando uno non esce bene, subito glielo dico, non perché voglio fare un'osservazione a qualcuno, no, nella maniera più assoluta, solo per renderlo capace delle condizioni in cui lui esce, per cui per me penso che sia una cosa normale, soprattutto corretta, informare l'interlocutore nella condizione in cui sta uscendo. Avanti Claudio, confermi? Sì, sì, confermo, ma a Gianni l'ho già sentito l'altra volta, il giorno che l'ha piazzato e si abbina bene a quella radio, dai, non è come ha detto Franco il massimo, ma comunque abbastanza comprensibile, non lo so. Io non so se la modulazione è sempre la stessa, a prescindere dal segnale, ma se la modulazione è sempre la stessa, io sto usando sempre la vecchia baracca con l'MC60, com'è la modulazione? Sempre buona, va bene? Tu sei sempre tu. Bene, allora già non sei farà dal fumo tra radio. E Marta, tu immaginati che è rimasta forse un 8, 9 mesi, 10 mesi dentro l'armadio, perché non ci avevo posto, avevo altre radio che dovevo usare per forza e quindi l'avevo tolta. Poi l'ho messa e ho visto che sta sempre andando, e io beh, ci sono quando si sfasciano già sappiamo più o meno come mettere le mani, ma bisogna sempre accenderle e farle funzionare. Col tempo, Giulio, te l'ho detto, alla promessa che ti ho fatto, col tempo, vedi, piano piano, magari ogni tanto, se c'è gente, le persone che conosco, che abbiamo sempre trattato, eccetera, fare due chiacchiere, per carità, non si nega a nessuno, si fanno due chiacchiere, si racconta più o meno, ma ripeto, sempre in armonia e tranquillità, che io non agio bugana di sabbia con nessuno. Ci sono altre priorità, oramai è così. Mi pare che aspetti a Tonino, poi fai girare per Torre, Tonino fai. Papa Claudio, io dottor Trafoni di Sena ti ascolto come sempre, la tua colorazione è uguale identica, non cambia nulla, e poi mi sono messo la colonnina mia, un po' di, diciamo, diversa di modulazione, la percepisce con la colonnina diversa, ma comunque, ormai sto facendo orecchio con questa, e va benissimo, comunque, non ti preoccupare. Avanti Franco. Adesso provo a cambiare la batteria e poi vi richiamo per vedere se è un problema di batteria, dai, avanti Giulio. Ok, sì, va bene, non c'è problema, comunque vi ascolto tutti bene, io non ho che lamentarmi nella maniera più assoluta. Claudio, cosa volete dica? Io sinceramente al baracchino ci sono sempre, praticamente tutti i giorni cerco propagazione, devo dire che molto spesso la incontro, adesso faccio parte di un gruppo che facente parte, o meglio, che ha organizzato dalla Sicilia, è un gruppo internazionale di CB, chiamato Whisky Mike come gruppo, e pertanto sono iscritto lì, sono iscritto anche dal gruppo di Alghero, ma Alghero non sento mai nessuno, eccetto qualche persona e basta, ma niente di più, e devo dire che quest'estate mi sono divertito un mondo, veramente, guarda, una propagazione straordinaria, non so se tu hai ascoltato, io ho fatto tutta l'Europa con il mio piccolo baracchino qua con il CRT 2009, ho fatto tutta l'Europa e parte anche della Sud America, compreso Brasile, eccetera eccetera, per cui devo dire che mi sono anche ieri la Svezia con la Laponia, eccetera. Oggi invece non ho acceso, solo stasera, e per fortuna ho incontrato voi, e questo mi fa molto ma molto piacere, più di quanto magari alle volte sento propagazione, perché mi piace modulare il locale, questo per me è sempre stato il principio principale, il motivo principale. Gianni, avanti. E dove stai andando a modulare, a fare questi DX? Ma in banda laterale? Certo, in banda laterale, USB o Gianni, tutti i santi giorni. Adesso vabbè, la propagazione è un po' calata, però diciamo che di tanto in tanto, ma sono tanti dalla Sardegna, anche dalla provincia di Cagliari, Nuoro, Oristano, dappertutto, c'è una sfilza di persone, ci sono iscritti in questo gruppo, compreso Tino anche, Tino, Marino, Gavino, e ce ne sono di persone, solo che loro non li sento, ma sento quelle del fuori, del continente. C'è l'amministratore che un giorno mi ha sentito per puro caso così in propagazione, mi ha offerto di partecipare, di fare parte di questo gruppo, e io ho aderito, lui mi ha fatto l'iscrizione, mi ha fatto, dopodiché mi ha mandato anche la QSL personale, come ha fatto a tutti. Siamo un gruppo che solo in Italia siamo oltre 400, poi a livello internazionale ti puoi immaginare quanto siamo, se siamo già intorno ai 400 in Italia, ti puoi immaginare in tutto il resto del mondo, perché si parla del mondo e non sto parlando a vanvera, sto parlando dicendo cose veramente veritiere. Se tu vuoi fare parte non c'è problema, basta dargli il numero di telefono, ti fa l'iscrizione e ti manda anche da QSL personale, che poi abbiamo anche una piattaforma al computer, che io tra l'altro non uso mai, perché il computer per me è una cosa poco affidabile, perché io non sono capace, ma anche quello è vero, per cui ti puoi anche chiedere informazioni e tante cose anche col computer tramite questa piattaforma. Vai Gianni, fai girare tu, scusa se è passaggio lungo. E allora la cosa ben fatta, dai, sono dell'organizzazione, ho visto qualche cosa su internet, dei collegamenti che fanno, usano delle sigle per entrare, non hanno nominativi ma hanno delle sigle, se è quello che dico io. Vabbè dai, tocca a Franco, avanti Franco, fai girare. Capo, ha cambiato la batteria, non esce sempre male? Alternata, certo. E quindi vedi, non è roba di batteria, dai, rimetto le macchie precedente. Avanti, ripeti già, fai girare. Ma non è che hai sbagliato i collegamenti, fra? No, prima andava bene. Che strano, va bene, dai. Avanti a chi tocca. Claudio, avanti. Io non riprendo, sia che c'è qualcuno sotto che non sento. No, fra, lì è un problema di connessione, come ti ha detto Gianni. C'è qualcosa che sta toccando, hai un rientro di RF allucinante. Quindi o non è compatibile per niente quel microfono, o c'è qualche collegamento sbagliato, sicuramente. Non lo so, vai Tony, fai girare per Tore che parcheggio. Ecco, dai, io grazie al microfono Claudio, che adesso faccio correttivo perché devo prepararmi la cena, dai. Ok, e un saluto ricercolare a tutti quanti, statemi bene, alle prossime, Tore, riprendi tu e cuore tanto da parte mia. Ciao ciao a tutti. Ciao Tony, a risentirci alle prossime. Ok, e un po' di cose, girare piano piano. E vabbè, è così. Purtroppo Gianni, ciao, ti ho salutato, a te, buonasera anche a te. Beh, ciao, troppa gente c'è, magari è successo che mi sono dimenticato, scusa Vito, ma già lo sai che non ho problemi. Buonasera anche a te, avanti. Scusate un attimo, dai, prima facciamo un giro per salutare a Tonino, poi continuiamo il nostro QSO per chi ha voglia ancora di parlare. Vai Tonino, cioè vai Franco a salutare a Tonino. Sì capo, grazie Giulio. Ciao Tonino, ben sentito, alla prossima. Chi c'è, Tore forse? Io ho già salutato a Tonino. Non lo so se c'è qualche un altro a salutare, boh, sotto. E mi sa che io chiudo, dai, che devo portare il cane giù. Dai, ci sentiamo ragazzi, mi ha fatto piacere, fatevi sentire più spesso. Ah, state dimenticando di Claudio. Claudio, avanti per salutare Tonino. E si conferma, ciao Tori, buona serata, buon tutto, ciao anche a te Gianni, se stai chiudendo per portare il cane. Io gli ho aperto la porta poco fa tra un passaggio e l'altro ed è andato rasura, allora è già rientrato. Adesso pulisco e basta. Ciao a tutti allora, a Gianni e a Tonino. Vai Giulio. E io scusa Giulio, chiudo, sono tutto a finalino, ora aspetto. Ciao, ripeti Giulio, ciao. Ciao Tonino, di nuovo ciao, buona serata, non farti desiderare. Fatti sentire frequenza, io giro sempre, se sento qualcuno mi fermo, se non sento qualcuno pazienza. Allora chiudo di malumore, ci sentiamo. Cari ragazzi, o meglio, cari amici, adesso vi devo lasciare anch'io, è arrivata l'ora alle 7:30 per la terapia e per cui sono costretto per forza, perché sono un pochino disordinato in questo periodo per un problema di salute che non riesco più a rispettare l'orario e dunque ci devo riuscire, perché quello è molto importante, che me l'aveva ordinato anche il dottore, di mantenere gli orari giusti, ben precisi, da due 12 ore a 12 ore. Salutoni a tutti, vi ringrazio, ciao Claudio, fatti sentire e ricordati quello che ti ho detto, sei sempre un trascinatore della frequenza, non hai compresa, no, che manchi tu, manca una grande cosa. Ciao Franco, salutoni, ciao Gianni, ciao Tonino di nuovo, ciao Tore, quanti ce ne sono in ascolto, mi sembra nessun altro, alle prossime, QRT per me, dopo il vostro saluto chiudo definitivamente. Vai Franco. Ah, è sempre un piacere sentirti Giulio, dai, ultimamente